Daniele, come ti senti? Felice. Bene, in questa veste tra l'altro abbiamo cambiato nel mio magazine off di cambiamento, no? Abbiamo portato questo argomento, adesso è il momento. Allora sì, è il momento di un cambiamento, penso che il termine sia la vita è piena di sorprese. L'anno scorso sedevo a questo tavolo come co-direttore di un festival, adesso siedo allo stesso tavolo come assessore alla cultura. Credo che questo cambio di ruolo sia buono, uno perché mi trovo bene con questo nuovo incarico come assessore alla cultura, è un lavoro che mi appassiona. Mi piace, su cui spero di spendere bene le mie competenze, e due perché ha permesso un cambio generazionale dentro un progetto che credo continui a essere importante per la città. Quindi in questo senso mi riconnetto alla prima domanda che hai fatto, sono felice. Bene, anche noi lo siamo e soprattutto vogliamo sapere se sei entrata un po' nel programma, anche hai sbirciato un attimo. No. Sai che lo immaginavo. No, perché ho piena fiducia nei confronti di Mauro Meneghelli, che è il nuovo direttore a pieno titolo, il nuovo direttore del progetto e della squadra che ha composto lui. Per cui mi affido molto e lascio che la sorpresa mi arrivi. Coinvolga. Coinvolga, esatto. Ti ringrazio tanto. Grazie. E ti auguro buona giornata. Grazie anche a voi.